grazie a Luca Giulio alla regia. Siamo giunti al termine anche questa settimana. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima e grazie a voi tutti dell'attenzione. Buona settimana.